altro aspetto molto importante di Willem Breuker. Lui ha veramente organizzato e sviluppato la musica improvvisata in Olanda, perché lui insieme con Misha Mengelberg, pianista, e trombonista Willem van Manen, avevano l'idea che per organizzare è molto importante di andare al ministero per organizzare sussidi per la musica, per la possibilità di fare prove per la musicisti, per organizzare moneta per viaggiare, per organizzare i musicisti olandesi in un società. E anche Willem Breuker con il suo collettivo era uno dei primi musicisti di andare fuori Olanda, fuori Europa, organizzare grandi tour in Stati Uniti, in Canada, dunque per export della musica olandese, anche per organizzare la distribuzione dei musica olandese. Lui aveva l'etichetta BV Haast. Dunque era un periodo molto importante e stimolante per musicisti olandesi, perché credo per la prima volta nella storia olandese c'era un voce per musica strana, per musica marginale. Credo Willem Breuker era un personaggio molto molto importante. E abbiamo ascoltato due brani, oltre alla voce di Abbarz, del sassofonista Abbarz, abbiamo ascoltato due brani tratti da un doppio LP intitolato semplicemente Instant Composers Pool. Si tratta di un'antologia che dà un'idea delle produzioni musicali della ICP proprio all'inizio, quindi sul chiudere degli anni 60. Abbiamo ascoltato prima Serendipity con tra gli altri Han Benning, lo stesso Willem Breuker, Misha Mengelberg e Peter Benning, il fratello di Han Benning, e poi a seguire un brano con la voce di Ginny Lee e poi Gunther Hampel, Anthony Braxton, Willem Breuker, Arjen Gorter e Steve McCall alla batteria. L'ICP, fondata come dicevamo nel 1967 da Willem Breuker, Han Benning e Misha Mengelberg, non nacque come formazione ben precisa, ma piuttosto come sigla ombrello, diciamo così, sotto cui operavano una serie di musicisti in gran parte olandesi che davano valore a questa idea, che all'epoca era abbastanza nuova, della instant composition, appunto, della composizione istantanea. Breuker lascia l'ICP nel 1974, che è poi l'anno in cui fonda il suo ben noto collectif, formazione che porterà avanti per più di 35 anni, ma dà vita anche alla BV Haast, la BV Haast che è non solo un'etichetta ma anche una casa di distribuzione. Abbiamo chiesto un ricordo di Willenbrecker a Francesca Patella, che oggi lavora per l'ufficio stampa della Beamhouse, altra realtà molto importante della scena olandese, e che invece a metà degli anni 90 era entrata a lavorare alla distribuzione proprio della BV Haast. Nel 93 sono andata a abitare ad Amsterdam e la prima cosa che ho fatto è stato andare al Beamhouse, dove ho parlato con Uwe, il direttore artistico, e dopo un po' di, insomma, dopo qualche mese gli ho chiesto se aveva per caso un'idea di un lavoro che potessi fare. E lui mi ha detto: ah, parlo con Susanna perché lei ha sempre bisogno di qualcuno. E Susanna von Cannon, che è stata per 15 anni manager di Willenbrecker e del collettivo e anche di tutta la casa discografica del BV Haast, faceva la distribuzione e anche seguiva tutte le produzioni che naturalmente venivano ideate e organizzate poi da Willem, era lui che decideva per il sì e per il no di quello che veniva registrato, prodotto e distribuito. Quindi penso che sia stato nel 95, si inizia il 95, ho cominciato a lavorare all'ufficio di Prince and Island, appunto dove lavorava Susanna, facendole da assistente. Quindi Willem capitava spesso in ufficio per fare riunione con Susanna o per prendere le sue cose, o perché da lì partivano con il pullman per andare in tournée, quindi capitavano, era la base di tutto il collettivo. Willem, quando entrava in ufficio, l'umore che aveva quel giorno si dilagava in tutti i metri cubi dell'ufficio, quindi se entrava a burbero non era cosa di assolutamente di scherzare o di fare nulla, se entrava invece fischiettando e burlone c'era da piegarsi a metà dalle risate e finiva a stare a luce vino proprio, era molto simpatico quando entrava di buon umore. Mi ricordo un giorno che io e Susanna avevamo sempre su un po' di musica e avevo portato la cassetta di lui prima un giorno, e è entrato e mi ha detto: ah, ma no, sentiamo Io solo di San Butera su Buonasera signorina, impazzito, cioè ballava felice, saltava, l'ho voluto sentire tre volte. Era uno che poi quando condivideva qualcosa appunto di artistico con qualcuno, lì era in grado di dare il meglio di sé, dava il meglio di sé negli incontri creativi o di condivisione di cose artistiche e passioni comuni.